Come stiamo questa mattina? Bene? Fa freddo? È per tenerci giovani che manteniamo fredda questa sala, è vero? E rimaniamo giovani. Ma non c'è cosa migliore di avere una giornata di sole dopo un tempo di pioggia, è vero? È bella la pioggia, ma è bello anche il sole. Quanti preferiscono il sole alla pioggia? Quanti la pioggia al sole? Ah, vedete che ci sono, non sono solo. È bello avere la pioggia, è bello avere la pioggia ed è bello avere anche il sole. È bello avere le stagioni e ieri le donne hanno vissuto una serata meravigliosa parlando di stagioni. Quante c'erano ieri sera? Vi vedo cariche, vi vedo più belle. Anche mia moglie e Ioanna sono più belle oggi di ieri, perché ogni giorno sono più belle. Dio è generoso. Ebbene, mi aspettavo una risposta un po' migliore, perché ho detto che Dio è generoso. E forse è proprio per questo che devo predicare su questa definizione di Dio, perché è necessario che noi comprendiamo che il nostro Dio è generoso. Lui è generoso, lo posso dire più volte, Lui è generoso, è una bugia infame del diavolo farci credere che Dio non sia generoso, è una bugia diabolica farci credere che Dio non sia buono. E noi possiamo cantare questa mattina, mai capirò il tuo amore, perché è così vasto, è così grande il nostro Dio, non è generoso solo in parte, non è neanche generoso nella misura con cui tu conosci questa generosità. Lui è molto più generoso di quello che tu sai della sua generosità. Lui è estremamente generoso al tal punto che non c'è nessuna persona al mondo più generosa del nostro Dio. Amen. Vi sto cominciando a convincere, però devo predicare ancora di più. Devo predicare ancora di più. Partiamo dalla definizione di generosità. La generosità è la nobiltà d'animo che comporta il sacrificio nell'interesse. Il sacrificio dell'interesse e della soddisfazione personale di fronte al bene altrui. Quindi la generosità prevede sacrificio e la generosità è qualcosa che Dio ha e che dimostra puntualmente, regolarmente, e lo troviamo in tutto il testo biblico. Io voglio leggervi però una porzione della Bibbia, in Giacomo al capitolo 1, voglio leggervi i versi 16 e 17 che dicono così: non vi ingannate, fratelli miei carissimi, ogni cosa buona e ogni... State leggendo con me? Mi aiutate stamattina, sennò poi perdo la voce, ok? Quindi leggete con me. Ogni cosa buona... presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Dio non cambia. Dio è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. E questo passo ci dice che ogni cosa buona, ogni dono perfetto vengono da Lui. Sai che cosa significa? Che tu ti puoi fermare e puoi prendere la tua penna e puoi prendere un taccuino e puoi cominciare a scrivere l'elenco di cose buone che ci sono nella tua vita. Qualsiasi cosa tu scriva, qualsiasi cosa ti venga in mente, qualsiasi cosa puoi mettere in quell'elenco, proviene da Dio. Il mittente, l'autore di ogni dono buono nella tua vita e di ogni dono perfetto nella tua vita è solo uno, è Cristo Gesù. Il tuo buon lavoro, il tuo buon lavoro è da parte di Dio, amen? Il tuo buon lavoro, puoi dire, ma io ho sudato tanto per prendere la laurea che mi ha permesso di avere questo buon lavoro. Quindi ogni buon dono, anche il tuo buon lavoro, dici, ma io ho sudato per la mia laurea e ho lavorato, Nino, parlavamo l'altro giorno, ha sudato per la sua laurea, è un dottore, è un medico, e Nino potrebbe dire, io ci ho messo anni di studio. Ma caro Nino, chi ti ha dato la forza in quegli anni? E chi ti ha dato l'intelletto in quegli anni? e che ti ha reso possibile e ti ha messo nelle condizioni di ottenere quella laurea e di aprire l'orizzonte del tuo futuro nel campo lavorativo medico. Oh, Nino lo sa molto bene, ma io sto predicando a tutti noi. Perché a volte noi prendiamo con gelosia quello che ci è dato da Dio e riteniamo che sia un dono autoprodotto, quando la Bibbia dice che ogni dono buono e ogni dono perfetto viene da Dio. La tua salute viene da Dio. La pioggia viene da Dio. Vedete, io la sera amo mettere a dormire Ioanna. E quello che facciamo, tanto io che mia moglie, è concludere la giornata con lei in preghiera. E quello che facciamo è ringraziare. E allora io amo vedere Ioanna, perché sta crescendo veramente bene da pentecostale. È proprio pentecostale, sapete? E non so come gliel'abbiamo potuto impartire questa cosa, ma lei annuisce, lei dice sì, molto più di voi. Lei, se avesse la parola, starebbe qui a dire amen e alleluia ad ogni cosa che direi. È più sveglia di voi. E la sera, quando io prego e quando ringrazio il Signore, dico Signore, grazie per questa giornata. E lei fa con la sua testa, mi guarda con gli occhi sgranati, là così, e fa... E io devo stare attento, no? Perché voglio la sua partecipazione, voglio il suo accordo. Allora penso a tutte le cose che lei ha vissuto. Grazie per i nonni che sono venuti a trovarci, lei. Sta andando bene, papà. E poi grazie per il sole. E lei fa così. E poi grazie per la casa. Mi guarda. Grazie per i giocattoli. E ora lei interagisce, quindi non sono più solo io, ma adesso lei comincia a parlare e quindi lei mi interrompe da buona pentecostale, mette la sua preghiera sopra la mia e mi fa sentire piccolo così, perché lei dice poi grazie uccio, grazie per il ciuccio, hai ragione, sì, grazie per il ciuccio, grazie a te, grazie per il latte, hai ragione, amen, amen, e poi fa grazie papà. E io la mi sciolgo, ed è lì che poi rischi di entrare in una dimensione genitoriale dove vizi i tuoi figli, dove non ti interessa più niente, di dire no a nessuna cosa perché ti sciogli e vedi il loro amore. Attie, dice mia figlia, dice attie cacca. E io so, grazie per le paperelle, perché ho visto le paperelle durante il giorno. Quanta gratitudine può sbloccarsi nella nostra vita se noi riconosciamo che ogni giorno noi abbiamo dei doni e ogni buon dono viene da Dio, e così riconosciamo che abbiamo davvero un Dio generoso. Sapete come va avanti questo verso? Questo verso va avanti con la presentazione di una dottrina che è molto importante per ogni cristiano, la dottrina della rigenerazione. Infatti nel versetto 18, continuando, l'apostolo Giacomo dice: egli ha voluto generarci secondo la sua volontà mediante la parola di verità, affinché in qualche modo siamo le primizie delle sue creature. Quindi Giacomo dice: Non vi ingannate, fratelli. Perché dice non vi ingannate? Beh, perché poco prima ha parlato del peccato, della tentazione, della concupiscenza, e Giacomo sta dicendo a questo punto: non vi ingannate, queste cose non vengono da Dio. Dio non porta il peccato e la concupiscenza, non c'è male in Dio, non è Lui che porta cose negative. Non vi ingannate, fratelli, ma piuttosto ogni cosa buona viene da Lui. E poi aggiunge questi versi e dice: è Lui che vi ha voluti generare secondo la sua volontà mediante la parola della verità, affinché in qualche modo siamo le primizie delle sue creature. Che cos'è questa dottrina della rigenerazione? La dottrina della rigenerazione afferma questo, che la rigenerazione è l'opera soprannaturale dello Spirito Santo che dona vita spirituale a peccatori che sono morti. Non viene da te, non è qualcosa che tu sei reso capace di fare. Tu sei morto, tu sei senza vita spirituale, tu sei disperato, separato. C'è un abisso tra te e Dio, ma Cristo è venuto e il messaggio della verità che qui è citato da Giacomo è l'Evangelo, e l'Evangelo ti ha dato la possibilità di vivere una nuova vita, di essere rigenerato. Tu sei una nuova creatura e tu sei primizia delle sue creature. Qualcuno viene a me qualche volta e mi dice: pastore, ma i cani andranno in paradiso? E io non so rispondere. Se hai una risposta, dagliela. Io non so cosa rispondere a questa domanda. Però una cosa so: che Dio ci stima a volte più di quanto noi stimiamo noi stessi. E noi a volte stimiamo più i cani che il genere umano. E ci preoccupiamo più che i nostri cani domestici vengano in cielo, piuttosto che preoccuparci che i nostri vicini di casa non finiscano all'inferno. E ci preoccupiamo di ciò che ci appartiene, piuttosto che preoccuparci di quello che ancora non ci appartiene, ma che Dio ci vuole dare come eredità. E l'eredità è il dono più grande che Dio vuole darti, se sei rigenerato e sei nato di nuovo, è la possibilità di portare altri alla rigenerazione e alla nuova nascita. Dio ci dà questo privilegio. Non voglio screditare nessun amante di animali, non voglio screditare chi ha i cani domestici, ci tiene molto, però impara ad apprezzare la vita umana, perché Dio dice di noi che siamo primizie della sua creatura, e in modo particolare si riferisce a coloro che sono rigenerati in Cristo. Noi siamo nuove creature e noi stiamo nella top 10 della sua lista di preferenze. Noi siamo primizia, lui ci tiene al noi, lui ci ama e lui è amorevole nei nostri confronti al punto tale da aver donato tutto. Lui è generoso, fatemelo dire ancora una volta: Dio è generoso e la sua generosità è manifestata in Cristo Gesù. Lui è il suo dono, lui è il dono per l'umanità. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. E un altro verso in Romani 8:32 dice: colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Se tu sei consapevole della generosità di Dio manifestata in Cristo Gesù, non puoi fare a meno che avere sicurezza e fede di ogni altro dono e di ogni altra benedizione in promessa che Dio vuole darti. Ma parte dalla consapevolezza. Quanto è triste che ci possano essere credenti che desiderano più tutte le altre cose, che ci donerà tutte le altre cose, che ci dona tutte le altre cose, e non diamo valore al dono più importante, il dono prezioso che permette la benedizione in tutte le altre cose. Quanto è triste che ancora oggi ci possano essere 10 lebbrosi che si presentano a Gesù, tutti e 10 con la lebbra, tutti e 10 disperati, tutti e 10 malati, che vengono tutti e 10 guariti da Gesù. Perché questo è quello che narra l'Evangelo, che Gesù guarisce tutti e 10 lebbrosi, ma solo uno torna per glorificarlo, adorarlo, riconoscere quale Dio della propria vita. E allora ci sono persone, anche credenti a volte, che accorrono a Dio qui a destra e a manca per avere la guarigione, per avere il suo tocco, per avere la provvidenza, per avere questo o quest'altro. E Dio è meraviglioso, e io a volte non lo capisco nella sua immensa generosità. Lui non si è risparmiato a guarire il lebbroso che sarebbe tornato a ringraziarlo, lui li guarisce tutti e 10. E Dio non si è risparmiato a lavare i piedi degli 11, ma ha lavato i piedi dei 12, sapendo che fra quei 12 e sapendo chi fosse il 12esimo che l'avrebbe tradito, lui lava i piedi a tutti. Perché? Perché è generoso, perché non fa nulla per un tornaconto personale. Vedete quanto è generoso il nostro Dio, e allora possiamo accorrere a Lui, come ci è stato anche invitato a fare da Sara, alla sua luce, e non rimanere nelle tenebre, ma correre alla sua luce e afferrare la nuova vita che lui vuole darci e la salvezza e afferrare Cristo. C'è un canto afroamericano, uno spiritual, che dice: posso avere tutto, ma dammi Gesù. Dammi Gesù, posso avere tutto, ma dammi Gesù. È stato reinterpretato, riscritto e cantato anche da Nico Battaglia. Cercatelo su YouTube, è un bellissimo brano. Posso avere tutto, ma dammi Gesù, perché Gesù è tutto. E se ho Gesù, ho tutto il resto. E Gesù vale più di ogni altra cosa. Per questo Gesù dice: non siate in ansietà per cosa alcuna. Cercate piuttosto prima il regno e la sua giustizia e ogni cosa vi sarà sopraggiunta. E non cercare il sopraggiunto, non cercare prima le altre cose, cerca Gesù. A volte noi siamo in carenza nella nostra vita e quella carenza è l'occasione ideale che il Signore ci mette davanti per afferrare Gesù, per comprendere che la nostra mancanza, il nostro bisogno, che sia economico, che sia nella salute, che sia nelle relazioni, che sia nel matrimonio, che sia in qualsiasi area della nostra vita, è un'occasione per inginocchiarci e andare da Gesù. E quando troviamo Gesù, poi troviamo soluzione ad altro. E quindi questa mattina, se tu ti trovi in qualche bisogno, non cercare di colmare velocemente quel bisogno, perché forse neanche Dio lo sta facendo. E a volte noi ci disperiamo perché Dio non risponde alla nostra richiesta, che è: dammi, colma questo vuoto, colma quest'altro vuoto, dammi questo bisogno. E il Signore dice: c'è qualcosa di più grande, c'è Cristo, c'è lo Spirito Santo. Dio è generoso e dona lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Leggiamo un altro passo biblico meraviglioso, e si trova in Giovanni 7. Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avevano creduto in lui. Lo Spirito infatti non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora glorificato. E noi sappiamo che lo Spirito Santo è il dono di Dio. Infatti l'Apostolo Pietro dirà: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Cristo Gesù per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete cosa? Il dono dello Spirito Santo, il dono. Quindi Dio ci dà Cristo, Dio ci dona lo Spirito Santo, e l'avete letto con me. La nostra è una condizione di sete, e con lo Spirito Santo cosa avviene? Che noi, assetati, diventiamo dissetati. Lo Spirito Santo ti disseta. Non credere a altre cose, non credere a quello che è l'astuzia del maligno di portarti a vedere inclinazioni di Dio che non ci sono, che non sono vere, che lui non ti ascolta, che non ti vuole bene, che non ti sta vedendo, che non vuole intervenire. No, ascolta la voce di Dio, Dio ti dona lo Spirito Santo. Ma abbi sete, dice, abbi sete, se uno ha sete, venga, se uno ha sete, allora abbi la giusta sete, del giusto intervento, del giusto dono di Dio, perché poi quel dono ti disseta e non solo, l'abbiamo letto, diventa una fonte in te che ti permette di dissetare altri. Meraviglioso. Però vedete la differenza tra quello che può essere uno stagno, un lago e un fiume, è che c'è un'inclinazione. C'è un'inclinazione. Lo Spirito Santo ci è dato e funziona come fiume che sgorga dal nostro seno se c'è un'inclinazione. E l'inclinazione sono gli altri. Lo Spirito Santo non è dato unicamente per dissetarci, ma ci è dato per dissetare altri. E allora, se noi vogliamo vivere l'abbondanza dello Spirito Santo, dobbiamo fare attenzione che ci sia inclinazione nella nostra vita. Se c'è inclinazione, l'acqua scende, l'acqua è rigogliosa, l'acqua e la fonte viene alimentata, ma se è tutto piatto e non c'è riciclo, il tutto si ferma lì e diventa uno stagno, qualcosa che non si rigenera. E anche Dio stesso si chiede perché dovrebbe darci di più del suo dono di Spirito Santo se poi ne facciamo un uso solo a livello egoistico e personale. E quindi più ti metti in moto e più doni agli altri e più ti dai, ti adoperi per esercitare i doni dello Spirito Santo e più Lui cresce in te. E questi fiumi parla la parola di Dio, fiumi, dice Gesù, aumentano in vigore nella tua vita. Leggiamo una storia in Atti degli Apostoli, proprio quando, poco dopo che gli apostoli e i discepoli hanno ricevuto lo Spirito Santo. Leggiamo di Pietro e Giovanni, che salivano al Tempio per la preghiera dell'ora nona, mentre si portava un uomo zoppo fin dalla nascita, che ogni giorno deponevano presso la porta del Tempio detta Bella per chiedere l'elemosina a quelli che entravano nel Tempio. Vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, egli chiese loro l'elemosina. Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse «Guardaci». Ed egli li guardava attentamente, aspettando di ricevere qualcosa da loro, ma Pietro disse, dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho ti do. Quello che ho ti do. Io mi chiedo quanto cambierebbe la nostra vita, la storia della nostra vita, e la storia della vita degli altri, se noi avessimo questa attitudine: quello che ho, ti do. Quello che ho ricevuto, io lo do. Sappiamo il resto della storia. Il malato guarisce. E qui si aggiungono altre 2.000 persone a conversione. 3.000 al giorno di Pentecoste. E dopo questa guarigione e il discorso successivo che Pietro fa, altre 2.000 persone vengono a conversione. Quindi non abbiamo solo un guarito che era zoppo e che ora cammina, abbiamo 2.000 anime che sono strappate dall'inferno, dalla perdizione eterna, e che sono portate a vivere un destino di vita terrena e ancora di più prezioso per l'eternità con Cristo, con il dono più prezioso. Quello che ho ti do. Quello che io ho, io ti do. Che cosa hai nelle tue mani? Che cosa Dio ti ha dato? Non tenerlo per te. Donalo, perché così si moltiplicherà. Sappiamo la storia del giovane, 5 pani, 2 pesci. Quello che ho, ti do. E si è moltiplicato. Potremmo parlare della vedova, pochi spiccioli. Quello che ho, ti do. O della donna peccatrice con l'olio profumato che riversa il tutto ai piedi di Gesù. Quello che ho ti do. E tutte queste storie ci parlano di moltiplicazione, di benedizione, di vite trasformate e di un soprannaturale che si sblocca a causa della generosità. Quindi che cosa voglio dire? Che Dio è generoso e ci chiama a vivere una vita generosa come Lui è. Lui ci chiama ad essere come Lui per sbloccare ricchezza, benedizione, tutto attorno a noi. Parlo di finanze, anche di finanze, in ogni cosa. Sii generoso, perché nella generosità si sblocca benedizione. Noi stiamo vivendo un anno che si sta concludendo, un anno nel quale ci siamo concentrati su un tema, il tema che è una preghiera: non io ma tu, non io ma tu, Signore Gesù, tu non io, ma anche inteso come tu l'altro, il prossimo, non io, tu l'altro, tu nei tuoi bisogni, tu nella tua perdizione, tu nel tuo buio, tu non io, tu non io. E questo tipo di vita porta prosperità e ricchezza. E sapete che all'inizio dell'anno abbiamo fatto una raccolta, la nostra solita raccolta, che chiamiamo raccolta miracolosa, no? O dono perché amo. Ed è una raccolta che va oltre le decime e le offerte. Con quella raccolta facciamo cose speciali, programmi o progetti che altrimenti non potremmo permetterci come Chiesa. E quest'anno ci siamo spinti a fare questa raccolta, che è stata abbondante, come sempre, perché siamo una Chiesa generosa e vogliamo essere una Chiesa generosa. E che cosa è accaduto con dono perché amo? Che il Signore metteva nel cuore di molti di dare quanto raccolto a favore di altri ministeri, dare con quel tipo di generosità che non chiede nulla in cambio. E abbiamo avuto la risposta di questi ministeri, di queste opere. Possiamo proiettare la tabella dei vari ministeri che abbiamo potuto benedire. Sembrano tanti, ma è solo una goccia in un oceano per i bisogni che questi ministeri hanno. Abbiamo benedetto ministeri italiani, abbiamo benedetto chiese locali, abbiamo benedetto ministeri esteri, abbiamo benedetto quelle associazioni che aiutano nei disagi sociali, nelle opere evangelistiche. Vorrei leggervi tutte le email, tutti i messaggi che ci hanno inviati, ma non avremmo tempo. Però voglio farvi ascoltare un video di una opera che abbiamo benedetta, di Johnny e Friends, quindi possiamo vedere questo video. Salve a tutti, sono Martina Zardini, la presidente di Johnny and Friends Italia, e questo breve video per ringraziare la Chiesa del Pieno Evangelo, per ringraziarla per il dono fatto alla nostra associazione. So che siete a conoscenza del lavoro che noi facciamo per la promozione dell'inclusione delle persone con disabilità all'interno delle chiese, ma anche per la loro evangelizzazione, ma anche per il loro sostegno, il sostegno alle famiglie e soprattutto il nostro impegno a raccogliere, riciclare, ridistribuire ausili per persone con disabilità non in buonissime condizioni di non benestanti, insomma, ecco. Vi ringraziamo per il vostro apporto alla nostra missione, e state sicuri che ne faremo un buon uso e sarà sicuramente di sostegno a qualche famiglia che ha bisogno. Grazie, grazie di cuore, Dio vi benedica grandemente. Questo è solo uno dei feedback. Possiamo farci un applauso, possiamo celebrare la generosità nella nostra Chiesa. Sapete, c'è un altro però messaggio vocale che vorrei farvi ascoltare, perché questo è un ministero cristiano, no? Evangelico, che si adopera per coloro che hanno delle disabilità, che hanno degli impedimenti, hanno dei problemi economici. Però quello che abbiamo voluto fare è spingerci oltre, anche al di fuori delle opere evangeliche, delle opere cristiane, o diciamo così, che hanno proprio come identità il cristianesimo. Abbiamo voluto benedire un'opera e un'associazione qui a Modugno, e la reazione, un'associazione che lavora altrettanto con i disabili, è molto interessante, ve la voglio far ascoltare. Sono scioccata, Giorgia, sono veramente, mi lasci senza parole, partendo dal motore che c'è alla base di questo, no? Al di là della somma, che per me sono talmente tanti che tu non puoi avere idea, per me sono proprio tantissimi. Quindi partendo dal principio, dal motore, dalle parole che spende rispetto a motivare questa cosa, sono basita, veramente, forse anche perché un po'... negli anni, come se mi fossi disincantata, no? Io nasco. E va avanti, il messaggio è lungo, non ve lo posso far ascoltare tutto, però parla di essere disillusa dalla mancanza di generosità e d'aver. È basita, lo ripete più volte nel messaggio, sono basita, sono scioccata, non lo capisco, e voleva chiedere spiegazione. E che spiegazione c'è nella generosità? Non c'è una spiegazione. Quando è pura, quando è autentica, non va spiegata, non va giustificata, è così com'è, e Dio ci ama di questo tipo di generosità e ci invita a vivere una vita generosa. E allora nel concludere questo mio messaggio mi chiedo: che cosa il Signore ti sta invitando a vivere oggi, a fare oggi? Qual è l'invito che Dio e l'appello sta facendo alla tua vita nell'area della generosità? Siamo tutti in un combattimento costante contro la nostra carnalità e la nostra indole che ci porta a dire come la società: dammi, dammi, dammi. Perché ci sono io, dammi, dammi, dammi. Ed è così che i matrimoni si rompono, si distruggono, perché c'è un dammi, dammi, dammi. Ed è così che c'è depressione nella società che ci circonda, e c'è tristezza perché è un dammi, dammi, dammi. E più ti concentri su te stesso, e più quel dammi, dammi cresce e fa danni, porta tristezza, porta una vita chiusa, circoscritta. Invece Dio vuole darci una vita piena, ricca, gioiosa. Ed è per questo che ci dice: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Abbiate questo tipo di mentalità. Abbiate questo tipo di mentalità, che è la mentalità di Gesù. Gesù ha detto questo: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. E non so quanto sei veramente consapevole di questa verità. Però Dio è generoso e ti invita a una vita generosa, e se tu partecipi al piano di vita che Lui ha per te, Lui non ha nulla da toglierti, solo da arricchirti. E la generosità richiede fede, richiede andare in territori dove tu ti metti in difficoltà e non sai come farai. La scorsa settimana ho avuto un bellissimo appuntamento con un fratello della Chiesa che viene da una situazione economica molto disastrata a causa delle bugie del diavolo, a causa di come il diavolo ha portato quest'uomo a vivere, a sperperare, a perdere. E lui mi diceva: sai, io ho capito una cosa, la prima cosa che devo fare, nonostante i tanti debiti che ho e ha tanti debiti ancora da saldare, è dare prima a Dio. Io rimetto ordine nella mia vita, io e la mia famiglia, mettiamo prima la decima, l'offerta, e poi saldiamo tutto questo debito che ancora durerà per anni, che devo saldare per la mia vita dissoluta. E allora io non voglio convincerti a donare economicamente, non è l'intento del mio messaggio, anche se può darsi che questa è un'inclinazione e Dio ti sta parlando in quest'area, ma io ti invito ad avere una vita generosa a 360 gradi. Una vita generosa nelle relazioni: se devi abbracciare qualcuno, abbraccialo generosamente. Se devi ringraziare qualcuno, ringrazialo generosamente. Se devi elogiare qualcuno, elogialo generosamente. E stai attento alle parole che usi, perché le parole cattive e le parole che vengono dalla rabbia, che a volte vivi, distruggono. Una parola distrugge 100 parole buone. E allora trattieni le tue labbra, usa bene le tue labbra, sii generoso con le tue labbra, ma per dare elogi, nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ce n'è una buona ditela, affinché conferisca grazia a coloro che l'ascoltano, dice la parola. Sii generoso nei tuoi gesti, sii generoso in tutto quello che vivi. Gesù dice: voi avete udito che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico, non contrastate il malvagio. Anzi, se uno ti percuote su una guancia, ponigli anche l'altra. Se uno si è preso la tua guancia, tu donagli anche l'altra. E l'invito di Gesù non è vivere una vita succube, ridimensionata, schiacciata dai violenti. No, tutt'altro. Gesù ti invita a vivere una vita libera, dove tu non sei condizionata o condizionato dal modo di agire degli altri. E ci sono malvagi e veniamo picchiati, ma tu puoi essere libero e puoi elevarti e dire: ok, mi hai colpito su una guancia, io ho la forza nello Spirito Santo e nel Dio generoso nel quale credo di donarti anche l'altra di guancia. Se uno ti toglie la tunica, lasciagli anche il mantello. Se uno ti toglie la tunica, lasciagli anche il mantello, perché sei libero. Perché nel fare così Dio ti vede e Lui provvederà tanto per la tunica che per il mantello, perché ti stai allineando alla Sua volontà e stai raggiungendo un mondo che rimarrà scioccato, allibito, sorpreso, e si chiederà: perché, come? Com'è possibile? Da dove nasce? Qual è il tornaconto? Oh, non c'è tornaconto, perché sono stato amato io per primo e amo, perché il lavoro che ho non è mio, è di Dio, perché il mio conto in banca non mi appartiene, è di Dio, perché ogni cosa che ho in fin dei conti non l'ho presa io, non l'ho ottenuta io, non è per i miei meriti, è un dono perfetto che viene dall'alto. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Nei matrimoni, quanti matrimoni potrebbero risolversi, curarsi, guarire, se solo una delle due parti dicesse: sai cosa, mi hai colpito su una guancia, ma mi sono inginocchiato nella mia stanzetta e ho pregato e ho confessato le parole del sermone sul monte, e di vero cuore sono disposto a porgerti anche l'altra. Mi hai tolto il mantello, e sai cosa? Io ti do anche la tunica. Quanti matrimoni sarebbero salvi? Quanto per effetto domino l'altra, la controparte, se non alla prima occasione, se non alla seconda, ma alla decima, alla ventesima occasione, non inginocchierai le proprie ginocchia e dire: ma tu hai qualcosa che io voglio. Ed è la testimonianza di tanti mariti che sono venuti a salvezza, santificati dall'atteggiamento delle donne, e mogli che sono venute a salvezza, santificate dall'atteggiamento degli uomini, perché hanno riconosciuto che nel loro marito, nella loro moglie, c'era qualcosa di diverso, di qualcosa soprannaturale che veniva per forza dall'alto e la volevano. Vogliamo alzarci. Vogliamo pregare. Vogliamo chiudere i nostri occhi. Io voglio pregare che tu possa afferrare il dono di Cristo questa mattina, che tu possa ricevere il dono dello Spirito Santo questa mattina, non domani, non rimandare a domani quello che Dio ha stabilito che tu puoi afferrare oggi. E mentre abbiamo i nostri occhi chiusi, io voglio pregare per tutti coloro che vogliono di più della pienezza dello Spirito Santo, impegnandosi però ad essere un fiume che non è interrotto, che non perde la sua inclinazione, ma che è ben inclinato, anzi sempre più ripido nel dare, nel portare guarigione, nel portare salvezza ad altri. Allora, se questo è il tuo desiderio, io ti chiedo di alzare le tue mani e voglio pregare che lo Spirito Santo ci possa essere dato in una misura più copiosa, più abbondante, ma non per noi, per gli altri. Padre, io prego, donaci lo Spirito Santo in misura abbondante, ripeto, non per noi, Padre, ma per gli altri, per chi ne ha bisogno, Padre. Noi vogliamo vivere in un'attitudine dove diciamo: quello che ho io ti do. E vogliamo, Padre, portare gioia, vogliamo portare amore, vogliamo portare parole di consolazione, vogliamo portare parole profetiche a chi è disperato, a chi è nel buio, a chi è zoppo, a chi è che è lì che sta chiedendo l'elemosina, Signore Gesù. Vogliamo essere i tuoi Pietro e Giovanni per questo tempo, perché siamo i tuoi Pietro e Giovanni per questo tempo, Signore. Perdonaci per aver interrotto, per aver cambiato l'inclinazione. aver cambiato l'inclinazione dello Spirito Santo verso i nostri bisogni, verso il nostro appagamento. Rimetti in ordine tutto questo, riempi i tuoi figli, Padre, io prego, di Spirito Santo, ognuno di noi. Amen. Alleluia. Grazie, Padre. Grazie per la tua generosità. Grazie per il tuo amore. Vieni, Spirito Santo, ti invitiamo. Prenditi del tempo per pregare, per stare alla presenza di Dio, per fare decisioni, per prendere impegni davanti a Lui. E se temi che quegli impegni non avrai la forza di assecondarli, allora chiedi a Dio stesso la forza di poter prendere un impegno che però mantieni.